A tempo di sport. Su fado é tristeza e dor, se há ciúme, se há pecado, serás tu. Beh, non so se questa è la voce di Amalia Rodriguez, sicuramente il fado che sentiamo è opera del mixaggio di Laura Vanossi in redazione, Paolo Corleoni in regia, la voce al microfono è quella di Dario Ricci. Beh, perché il fado? Perché Villas Boas ha detto di no, o meglio, l'Inter ha ufficializzato il fatto che non sarà neppure il pupillo, il figlioccio di Mourinho, a sedere su quella panchina, per cui ormai fra un po' bisognerà fare quasi le primarie per vedere chi ci andrà, e staremo a vedere perché è la notizia un po' del giorno. Michele Criscitiello, nostro primo ospite qui a Tempo di Sport dalla redazione di Sport Italia, grande esperto di mercato. Michele, tu sicuro lo sai chi ci va sulla panchina dell'Inter, benvenuto intanto. Ciao Dario, buon pomeriggio, buona domenica. Diccelo subito il nome, dai, diccelo subito il nome caldo. Il problema è che non solo dovrei saperlo io innanzitutto, però prima di me dovrebbe saperlo il presidente Massimo Moratti, probabilmente non lo sa neanche lo stesso presidente, quindi la verità è che la nostra ricostruzione su Sport Italia ogni sera nelle corse di speciale calciomercato dalle 21 alle 24 noi siamo andati per gradi, perché l'intuizione e la notizia di Alberto Cerruti, prima firma della Gazzetta dello Sport, corrispondeva alla realtà dei fatti quando c'era stato il contatto con Bielsa. Siamo stati i primi comunque a dire che Bielsa non veniva all'Inter per un motivo semplice, aveva detto di no perché lui spera soprattutto nella pista spagnola, perché non vuole occuparsi solo della squadra ma anche del mercato, cosa non possibile all'Inter. E allora alla sera, era luna italiana, in una telefonata a Marco Branca Bielsa ha detto di no. Il primo nome poi sulla lista del presidente Massimo Moratti, che inizialmente non era propenso ad andare da André Villas-Boas, era proprio quello del tecnico portoghese del Porto. Perché non era propenso inizialmente ad andare da Villas-Boas? Per due motivi: clausola rescissoria troppo alta, 15 milioni di euro, e soprattutto per non farsi nemico José Mourinho. Nella tua introduzione hai detto tutto giusto, però il discorso è che Villas-Boas e Mourinho in questo momento non hanno assolutamente rapporti, anzi i rapporti sono pari allo zero, e Moratti non voleva portarsi tra virgolette in casa da Piano Gentile un nemico di Mourinho, perché la speranza è anche perché poi quella panca lo Special One prima o poi la rivuole, Villas-Boas magari ci si trova pure bene, chissà, insomma, no? Sì, però il problema è che Villas-Boas in questo momento con Mourinho non ha nulla a che fare. Il viaggio, a quanto pare, da quello che emerge, non è stato in Portogallo, bensì in Spagna. E allora le voci che circolano negli ambienti di mercato si sono fatte sempre frenetiche, perché in Spagna ci sarebbe stato un contatto con alcuni dirigenti del Porto, ma in Spagna in questo momento con i nipotini e in vacanza anche Fabio Capello. È davvero un bel caos questo per la panchina dell'Inter. La cosa molto grave è che l'Inter non può non avere un allenatore al 19 giugno, passi il Lecce, passi il Genoa, ma l'Inter è comunque l'Inter. Sembra essere tornata un po' la società di qualche anno fa, prima della tripletta, troppo confusa. E poi soprattutto quello che ha detto ai giornalisti Massimo Moratti non corrisponde alla realtà dei fatti. Ha detto: non abbiamo ricevuto tanti no, la cosa mi dà fastidio. In questo momento invece i no a quanto pare sono tanti, perché dopo Bielsa arriva anche quello di Villas-Boas, Mihajlovic è la prima alternativa, ma sempre di alternativa si tratta. Comunque un contatto ufficiale con Mihajlovic fino a questo momento non c'è stato, e soprattutto in questi giorni Mihajlovic è ancora a Firenze perché i figli sono impegnati a scuola con gli esami di maturità, e quindi ancora non è in vacanza in Sardegna. La scuola prima di tutto, direi. Tempi serratissimi. Allora Michele, qualche domanda che ci arriva tramite SMS al 349-238-6666. È vero che Sanchez firmerà martedì per il Barcellona? Salta quindi il trasferimento di Rossi? Ci chiede questo ascoltatore, però firmate, via che è più bello. Michele, funzionerà così? Barcellona-Sanchez molto molto più vicini, grazie anche alla volontà dell'Udinese. Si parla di un contratto da 28 più 11, 28 milioni di euro subito all'Udinese, 11 come bonus che andranno al club friulano della famiglia Pozzo. Tra l'altro complimenti alla famiglia Pozzo, che non solo ha centrato quest'anno il quarto posto con l'Udinese, quindi il preliminare di Champions League, ma con il Granada ha raggiunto la Liga, una società promossa dalla Serie C alla Serie A, la Liga Spagnola, quindi davvero un'annata straordinaria per la famiglia di Gino Giampaolo Pozzo. Per quanto riguarda invece Rossi e il Barcellona, c'era un accordo sui 27 milioni di euro tra il Barcellona e il Villarreal, c'era anche un accordo, ma in questo momento sembra che il Villarreal alzi la posta. Comunque è un bel caos, perché su Sanchez, tornando al giocatore cileno dell'Udinese, ricordiamoci che c'era forte anche il Manchester City, nessuno lo dice, ma lo ricordiamo, è intenzionato ad avere Samuel Eto'o, ma fa carte false per avere anche dall'Arsenal di Arsène Wenger il centrocampista Fabregas. Ecco, insomma, avete capito perché poi chiamiamo Michele Criscitiello, perché le cose le sa davvero. Michele, allora intanto grazie, ti seguiamo su Sport Italia, ogni tanto chiamiamo, tieni il cellulare libero. Ciao Dario, buona domenica, presto, quando volete. Allora, Grande Italia, dicevamo, potrebbe essere quella di oggi del ciclismo. C'è Damiano Cuneco, fra poco impegnato nella crono finale del Giro di Svizzera, difende la maglia gialla. Grande Italia è stata quella della Superbike, con la doppia vittoria, prima manche di Melandri davanti a Biaggi, nella seconda si sono invertiti i posti e fra poco sentiremo proprio Max nel GP d'Aragon, mondiale riaperto. Grande Italia, hai visto mai che non arrivi anche a Wimbledon? Sentite un po'. Ed è match point Nadal, è il passante di Nadal che dà a Nadal la sua seconda vittoria a Wimbledon. The champion Rafael Nadal. Insomma, l'anno scorso era finita così, come solitamente, anzi spesso finisce nei tornei del Grande Slam, vero Silvia Farina? Benvenuta. Grazie, benvenuti a voi. Eh sì, insomma, spesso Rafa Nadal non solo si mette in saccoccia, come si direbbe, la terra rossa del Roland Garros, ma pure sull'erba che di solito è il terreno favorito di Roger Federer. Beh, Rafa già l'ha violata due volte, cerca il tris stavolta. Beh, ovviamente tutti questi campioni, ogni volta che si presentano a questi grandi slam, arrivano per vincere, non vogliono piazzamenti. E diciamo che è un'erba un pochino cambiata negli ultimi anni e ha agevolato anche, diciamo, un Nadal che ovviamente si predilige le superfici come la terra battuta e anche il cemento. Beh, tanto poi per ricordarlo agli ascoltatori, la signorina che ci sta parlando al telefono su quell'erba ha conquistato dei quarti di finale, no? Quindi insomma, sì, tutto sommato ti ci trovavi bene, no Silvia? Sì, sì, era una superficie che mi piaceva in modo particolare, tra l'altro non si gioca tutto l'anno, solo ci si ha la possibilità di giocare solo 3 settimane, e per chi va avanti a Wimbledon anche 4. E, beh, ovviamente per chi ha un gioco con le caratteristiche molto vario è veramente divertente giocarci. Tennis italiano che arriva a Wimbledon, che scatta tra oggi e domani, diciamo, tra qualificazioni e primo turno, con i successi di Roberta Vinci a Rosmalen, Andrea Seppi tra gli uomini a Eastbourne, insomma, potrebbe essere un'erba un po' più verde per noi quest'anno, considerando poi che c'è sempre Francesca Schiavone. Certo. Ma ovviamente quest'anno ci sono parecchi giocatori italiani che si presentano a Wimbledon in forma. Francesca Schiavone ha avuto modo di potersi preparare meglio rispetto all'anno scorso sull'erba, sicuramente dall'esperienza che, insomma, l'anno scorso è stato un pochino una freccia così inaspettata, soprattutto il dopo Roland Garros. Quindi insomma abbiamo una squadra italiana al completo, diciamo che hanno dei turni a mio avviso per alcuni buoni, ovviamente in prospettiva per andare avanti non è semplice per tutti. La stessa Francesca Schiavone ha al primo turno Jelena Dolkic, che ha battuto la Vinci proprio in finale a Rosmalen, e non è un turno facile. Però insomma la stessa Flavia Pennetta ha un incontro difficile, Roberta Vinci è in grande forma. Lo stesso Seppi, se, tra l'altro gli volevo fare i complimenti perché è il suo primo ATP che ha vinto in carriera e che possa per lui essere un auspicio per continuare a avere successi. Ah beh, certo, aspettiamo subito il bis. Silvia, ti chiedo ancora qualche curiosità, tu che quell'erba magica l'hai calcata, ma la prima volta che si entra in campo a Wimbledon si riesce a pensare al tennis o si rimane incantati dal fatto solo di esserci? Beh no, diciamo che insomma ovviamente per chi ci arriva la prima volta è un ambiente diverso, è veramente affascinante, però insomma ormai i giocatori sono abituati, rimane sempre il fatto della bellezza del posto, sembra di giocare veramente dentro un teatro, però insomma poi quando si scende in campo si gioca sempre per vincere. E sarà ancora Rafa contro Roger come a Parigi, non come l'anno scorso, perché Rafa e il Nadal l'anno scorso ha battuto Berdych in finale. Beh guarda, no, perché Nadal e Federer si dovrebbero incontrare in un'ipotetica semifinale, quindi non si avrà sicuramente la finale Federer e Nadal, e a mio avviso rimane sempre il più favorito Federer. Però insomma ci sono forse più nel campo maschile che quello femminile, ci sono compaiono quattro nomi che sono tra l'altro Federer, appunto Nadal, Djokovic e Murray, che sono a mio avviso loro quelli che andranno in fondo. A livello femminile rimane un'incognita perché hanno ricominciato a rigiocare le Williams, però sono state ferme tanto tempo, quindi non so bene in che condizione arrivino, anche se hanno giocato Eastbourne e hanno fatto comunque vedere buone cose. Ma secondo me ci può essere una Sharapova ritrovata e magari chissà un outsider, anche una Kitova che insomma ha fatto vedere cose buone, anche una Nalì. Bene, allora speriamo davvero di divertirci. C'ha questa incognita Williams, come ricordavi, perché quando loro sentono appunto il profumo nell'aria di quell'erba ritrovano immediata e sorprendente energia. Un'ultima curiosità, Silvia, senti, primo turno Isner Makut, che dobbiamo fare? Ci prendiamo 3 giorni di ferie per vedere tutto il match o stavolta se la sbrigano in meno di 11 ore come è successo l'anno scorso? Ce lo auguriamo, ma diciamo che quello che è successo è veramente rimasto nella storia, difficilmente potranno ripetersi. Bene, allora intanto Silvia Farina, grazie per essere stata nostra ospite, ti seguiamo nelle tue telecronache su Super Tennis. Fra pochissimo una breve pausa, intanto vi ricordo che oggi si completa anche il quadro della Serie B, in campo per i playoff Lega Pro, Atletico Roma Juve Stabia 0-0, ai romani basta anche il pareggio per qualificarsi, poi alle 18 Salernitana Verona con i veneti in vantaggio per 2-0. A tempo di sport. Sì, siamo al conto alla rovescia, no? Flavio Tranquillo, gara 5 di finale di basket stasera, si torna a Siena 3-1, Cantù sembra avercela messa tutta, forse anche di più di quella che ne aveva, e allora stasera si chiude. Flavio, ben trovato intanto. Ben trovati tutti. Sì, penso che si chiuda, però non penso che ci sia sicurezza, e comunque questa finale ha confermato le caratteristiche che già aveva fatto vedere all'inizio, cioè c'è una squadra che gioca contro Siena, penso che in assoluto sia un grosso passo in avanti per tutti. Eh sì, direi un grosso passo in avanti per il movimento, no? Perché era da un po' che ci cullavamo tutti dietro al refrain Siena è imbattibile, quindi quasi non vale la pena provarci, quasi vale la pena provare solo al secondo, terzo, quarto, quinto posto. Cantù ha detto che con i mezzi che ha a disposizione e facendo anche i miracoli però ce la si può giocare, ecco. Esatto, cioè Siena non è imbattibile ma è più forte, che probabilmente agli effetti pratici è la stessa cosa, ma invece non è esattamente la stessa cosa, perché giocare contro i più forti con la voglia di andare oltre i propri limiti e non semplicemente dicendo sono più forti e non ci riesco è l'essenza dello sport, al di là delle parole, dell'etica eccetera eccetera, farlo davvero come ha fatto Cantù è una bella cosa da vedere, almeno io ritengo questo. Personalmente pienamente d'accordo. Senti, è stata ed è una grande battaglia di strateghi in panchina, Pianigiani contro Trinchieri. Dal punto di vista Brianzolo, a quali risorse può attingere ancora il coach di Cantù? Nervose e tattiche, perché forse c'è ancora qualcosa da inventare? Ma tatticamente potrebbe, diciamo, sotto 3-1 in una partita in trasferta col pronostico chiuso, potrebbe provare a fare qualcosa di ancor più fantasioso, oltre all'alternarsi di zone uomo, oltre alle rotazioni speciali tipo Cecchic e Marconato, 2 azioni per 1 nel primo tempo come in gara 4, potrebbe provare un altro tipo di difesa per provare a sorprendere, ben sapendo lui per primo che non è quello che vincerà o perderà, ma forse per mandare il messaggio ai suoi abbiamo raschiato anche il fondo del barile dopo essere arrivati in fondo pur di provarci. Insomma, vale la pena di raschiarlo ancora quel fondo, perché magari si trova ancora qualcosa, perché si acquista credito anche a livello internazionale, perché Cantù poi sarà protagonista anche della prossima Eurolega. Flavio, c'è anche un'altra serie che potrebbe chiudersi stasera, è quella che decide il nome della promossa in Lega A, tra Casale Monferrato in vantaggio su Venezia Svezia potrebbe essere la volta buona per Casale, visto che negli ultimi anni è sempre arrivata vicinissima all'obiettivo per poi mancarlo all'ultimo. Penso che non dovrebbe pensare agli ultimi anni, ma pensare solo oggi. Credo che c'è una parte importante della squadra, soprattutto Hickman e Taylor, ma anche Malaventura, che non ha vissuto quegli anni, quindi che non è assolutamente influenzata da quello che è successo. E se riescono a giocare questa partita per vincere, questa paradossalmente può essere più facile da un punto di vista nervoso rispetto a gara 5, quello che gli americani chiamano un free play. È come nel football americano, quando l'arbitro fischia la penalità è contro la difesa, tu puoi tirare una bomba di 60 yard, anche se ti intercettano la palla rimane a te. Se Casale riesce a giocare con quel tipo di senso, veramente ha una possibilità oggi di chiudere. Insomma, il cuor leggero può essere la chiave, no? Sì, direi di sì. Hanno due possibilità per fare quello che invece Venezia ha una possibilità di fare, non ha margine di errore, loro ce l'hanno. Bene, allora staremo a vedere se stasera si chiude con la stagione del basket giocato, mentre per quello parlato, lo sai, ci sono sempre i nostri microfoni che ti ospitano più che volentieri. Grazie Flavio Tranquillo. A voi. Benissimo, grazie a Flavio Tranquillo. Voltiamo pagina e ci spostiamo a Roma per il Sette Colli di Nuoto. Perché? Perché fra poco manca davvero meno di un mese ormai all'inizio dei mondiali di Shanghai, hanno quindi quanto mai importante. Voglio sapere, voglio farvi raccontare da chi la stagione del nuoto la sta seguendo con grande attenzione, che Federica Pellegrini abbiamo visto finora in acqua in questo importante meeting romano. Benvenuto Gianmario Bonzi dalla redazione di Eurosport. Ciao Dario e buongiorno a tutti. Allora Gianmario, parlaci subito di Federica Pellegrini, perché lei è la nostra punta di diamante, già lo sappiamo, ha fatto delle buone prestazioni finora sui 400, poi 100 stile libero, tanto per mettere un po' di nuoto nelle braccia, oggi 200. Che Federica hai visto finora? Tra pochissimo peraltro la vedremo sui 200 stile libero, dove questa mattina ha già fatto benissimo in batteria. Ma che dire, guarda, quando Federica Pellegrini è così mentalmente libera, serena, sorridente, disponibile, e quando soprattutto nuota a certi tempi in pieno carico come due giorni fa, 4.467 sui 400, che non è il miglior tempo dell'anno ma in pieno carico è molto significativo, beh, quando è questa, allora io dico auguri alle sue avversarie, che sono tante, ma auguri veramente. Quindi io l'ho vista in grandissima forma, tenendo conto appunto che non ha fatto lo scarico, perché si fa soprattutto per i grandi appuntamenti. Il Sette Colli lo è, ma è un appuntamento di avvicinamento ai mondiali di Shanghai, quindi sono molto fiducioso. E poi soprattutto la testa sembra essere, abbiamo parlato prima di cuor leggero, ma anche testa libera è importante, e quella di Federica sembra essere ritornata in bolla, no? Esattamente, lo ha detto anche lei proprio in questi giorni nelle interviste, dove ha detto che insomma Riccione ad aprile ai campionati assoluti è stato un po' un evento mediatico, era la prima volta con Luca, eccetera, eccetera, il nuovo tecnico, no? Quello ex della Monadu, che ormai tutti conoscono, e invece adesso è sembrata proprio completamente libera, e quando è così, ripeto, insomma, vedremo delle belle cose sicuramente. Allora, intanto un paio di notazioni di cronaca, perché fine primo tempo tra Atletico Roma e Juve Stabia. Juve Stabia in vantaggio proprio al 46esimo del primo tempo con Molinari, mentre al Giro di Svizzera è già in strada ormai Damiano Cunego. Vedremo come concluderà la sua prova e se riuscirà a difendere la maglia gialla. Gianmario, ti chiedo ancora, buone notizie da Federica Pellegrini? Non direi altrettanto buone dal resto della squadra. Se è vero che siamo in un momento di passaggio generazionale, eccetera, eccetera, concorrenza che aumenta, ma ce ne sono parecchi dei nostri che sembrano piuttosto fiacchi. Sì, siamo in un momento così in cui abbiamo delle punte, soprattutto una Pellegrini, ma non solo, penso anche a Dotto, Pizzetti e Scorzoli, che sono i nomi importanti per i mondiali, quelli da medaglia a livello individuale. Per il resto però è un momento difficile, è dura, abbiamo visto Luca Marin che non riesce a nuotare sui suoi tempi, sui 400 misti, c'è Filippo Magnini che secondo me può essere un outsider, anche se è strano parlare di outsider, però non ha vinto certo due titoli mondiali, però insomma, per il resto abbiamo pochi nomi, ecco, pochi però buoni. E infatti soprattutto anche questo Scozzoli ormai si sta confermando ad alto livello, e poi so che Dotto è un tuo grande pallino, e quindi per carità, chi lo tocca, eh? No, poi è bravo, dai, fammi scherzare. Beh, sono Luca Dotto, campione del mondo junior sui 100 con la 4%, ecco, poi c'è la 4% che in teoria ha un potenziale enorme, è tutto da verificare perché le squadre sono forti. Comunque sì, Luca Dotto è il nome emergente, Cesar Cielo, fammi solo dire questo, ha detto che lo tiene moltissimo, Cielo è il campione del mondo di 50 e 100 in carica e primatista anche mondiale. Beh, allora, insomma, diciamo che nessuna discussione sul nome, se lo dice Cesar Cielo, siamo sicuri che l'avversario è più che credibile, staremo sicuri, staremo a vedere, e allora intanto in bocca al lupo per la stagione e anche per i mondiali di Shanghai. Grazie a voi e a risentirci a presto anche su Eurosport, magari, se volete. Sicuro, sicuro, ci tuffiamo in piscina con te. Allora, ci abbiamo ancora un minutino e mezzo, ve l'avevo promesso, perché oggi è stato Grande Italia nel Gran Premio d'Aragona della Superbike, due manche nella prima, primo Melandri, secondo Biaggi, caduto Carlos Checa, grande dominatore della stagione, nella seconda vittoria di Max Biaggi, secondo Melandri e terzo Checa, classifica mondiale guidata ora da Checa con Biaggi a 43 punti. E beh, allora sentiamolo Max Biaggi nel dopo gara della seconda manche. La prima gara siamo stati vicini, molto vicini. Gara 2 abbiamo cambiato qualcosa di, non dico di sostanziale, però qualcosa che mi ha giovato e andava meglio. E devo dire che se l'avessi fatto anche gara 1 me la sarei almeno giocata un po' meglio. Però sono contento che abbiamo portato l'aprile a vincere la prima gara dell'anno. Ce ne meriteremo sicuramente qualcosina di più, ma forse ce ne meritavamo qualcosina di più prima. Però le gare sono così, io ringrazio tutti quelli che hanno lavorato, che credono in questo progetto, perché siamo ancora una bella squadra e possiamo ancora recuperare se tutto funziona abbastanza bene. E allora, questa è la voce di Max Biaggi. Intanto Damiano Cunego difende il suo vantaggio nella crono finale del Giro di Svizzera. Per A Tempo di Sport è tutto, grazie a Laura Vanossi in redazione e a Paolo Corleoni in regia.